Ad alta voce. Paolo Pierobon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vitturini. Preso l'orologio, mi accorsi, portandomelo all'orecchio, che si era fermato di nuovo. Ma non ne fui sorpreso per nulla, convinto com'ero, dato lo stato dei miei sensi, di aver dormito, anche stavolta molto a lungo, sebbene naturalmente mi fosse impossibile stabilire quanto. Ardevo di febbre e la sete non mi dava pace. A tastoni cercai per la cassa quel poco d'acqua che mi restava. Non avevo più luce. La candela si era consumata tutta nella lanterna e non mi riusciva di mettere la mano sui fiammiferi per riaccendere. Trovai ad ogni modo la brocca, ma dovetti constatare che era vuota. Tiger, senza dubbio, non aveva saputo resistere alla tentazione di bere, come a quella di divorarsi il resto del montone, l'osso del quale, spolpato alla perfezione, giaceva sull'ingresso della mia cuccetta. Della carne, guasta com'era, non me ne importava nulla, ma al pensiero di essere rimasto senza acqua, sentii mancarmi il cuore. Versavo in uno stato di debolezza estrema, al punto che il minimo sforzo o movimento che io facessi mi pervadeva di un tremito tutto il corpo come per un accesso improvviso di febbre. Ad accrescere la mia inquietudine, il brigantino rullava adesso e beccheggiava con grande violenza. I barili da olio posti in cima alla mia cassa minacciavano ad ogni istante di rovinare, bloccando così l'unica via di entrata e di uscita che avessi. Inoltre soffrivo orribilmente di mal di mare. Per tutto ciò, presi la risoluzione di avventurarmi a cercare, a qualunque costo, il cammino della botola e di ottenere un aiuto prima che me ne mancassero del tutto le forze. Deciso che mi fui a questo, mi misi a cercare la scatola dei fiammiferi e le candele. Trovai così, dopo qualche difficoltà, la prima. Ma non riuscendo a scovare altrettanto presto come speravo, dato che credevo pressappoco di ricordarmi dove le avevo messe, le candele, rinunciai per il momento a cercarle. Era comandato a Tiger di stare tranquillo. Intrapresi, senz'altro, il viaggio verso la botola. Nel compiere questo tentativo, la mia debolezza si rivelò in tutta la sua gravità. Mi trascinavo con la più grande fatica, sentendo di tratto in tratto mancarmi le gambe all'improvviso, sicché cascavo faccia a terra e restavo per qualche minuto prostrato, quasi privo di sensi. Non di meno, mi sforzavo di avanzare a poco, con lo spavento di rimanere svenuto in quello stretto e intricato labirinto, nel quale caso non avrei avuto più altro da aspettare che la morte. Così, nello spingermi innanzi con tutta l'energia di cui disponevo, diedi di cozzo con la fronte nello spigolo di ferro di una cassa. Mi rialzai e mi misi a tastare con le dita le connessure della botola. Le esaminai attentamente per vedere se non ne filtrasse qualche chiarore dalla cabina, ma nulla scorsi. Vi introdussi allora la lama del mio temperino e ve la spinsi dentro fino a che non incontrai un ostacolo duro. Grattando contro di esso sentii che era ferro e avvertendo allo scorrere della lama lungo la fessura delle ondulazioni compresi che si trattava di una catena. Non mi restava dunque da fare altro che ritornare alla cassa e rassegnarmi al mio triste destino o di riacquistare la calma in modo da studiare a mente serena qualche piano di salvezza. Subito presi la strada del ritorno, ma fu dopo innumerevoli difficoltà che riuscii ad effettuarlo. Allora, esausto, mi buttai sul materasso. Tiger si allungò al mio fianco e pareva proprio volesse, a furia di carezze, consolarmi di tutte le mie pene ed esortarmi a sopportarle con fortezza d'animo. La singolarità della sua condotta finì per attirare la mia attenzione. Dopo di avermi leccato per qualche minuto la faccia e le mani, egli si fermava di colpo ed emetteva un sordo lamento. E ogni volta che io allungavo il braccio a toccarlo, sempre lo trovavo coricato sul dorso con le zampe all'aria. Questa attitudine che di continuo tornava ad assumere mi parve non poco strana. Ne seppi in alcun modo spiegarmela e siccome il povero cane sembrava tutto afflitto, io ne conclusi che doveva aver ricevuto qualche batosta. Presi dunque le sue zampe nelle mani e le esaminai a una, ma nulla vi trovai che indicasse un male specifico. Pensai allora che avesse fame e gli diedi un bel pezzo di prosciutto. La bestia lo divorò difatti con avidità, se non che, finito che l'ebbe, si rimise a fare le sue singolari manovre. Supposi quindi che fosse, come me, torturato dalla sete, ed ero già disposto a tenermi a quest'ultima supposizione quando mi venne l'idea che mi ero limitato ad esaminargli le zampe, mentre poteva essere ferito in qualche parte del corpo o alla testa. Gli tastai punto per punto la testa, ma non trovai nulla. Nel passargli poi la mano sulla schiena, sentii leggermente erto il pelo per tutta una linea che gli fasciava completamente il corpo. Scostai col dito il pelo e vidi che aveva legata addosso una cordicella. Ad un esame più attento scoprii una strisciolina che al tatto mi parve di carta da lettera e che, attraversata dalla corda, si trovava assicurata sotto la spalla sinistra dell'animale. Subito mi venne l'idea che quel pezzo di carta fosse un messaggio di Augustus che egli, impedito da qualche inattesa e per me inesplicabile circostanza di scendere a cavarmi fuori dalla mia prigione, mi avesse mandato con quel mezzo per mettermi al corrente della situazione. Tremando di impazienza mi misi di nuovo alla ricerca degli zolfanelli e delle candele. Si può comprendere quale oscurità regnasse nella mia prigione e come il biglietto del mio amico, se tale era quel pezzo di carta, non servisse ad altro che ad accrescere la mia inquietudine e a tormentare inutilmente la mia povera anima, già tanto provata dalle sofferenze. A lungo fantasticai sul modo di procurarmi della luce e tutti gli espedienti, uno più assurdo dell'altro, che il cervello mi suggerì, potevano essere paragonati a quelli che avrebbe immaginato per uno scopo simile un uomo immerso nel torbido sonno dell'oppio e pronto a giudicarli a volta come le più ragionevoli o le più inette delle invenzioni, secondo che dominassero in lui le facoltà razionali o immaginative. Alla fine mi si presentò un'idea così plausibile, a quanto mi parve, che mi stupii, ebbene a proposito, di non averla avuta prima. Spiegai la striscia di carta sopra un libro e, radunati i pezzettini di zolfanelli raccolti nel barile, li posai sulla carta. Poi, col palmo della mano, ve li strofinai vivamente e con forza un tempo. Il chiarore, sebbene forte abbastanza, fu momentaneo. Se non fossi stato troppo scosso dall'emozione, avrei tuttavia avuto il tempo di decifrare le tre frasi, poiché notai che erano tre che avevo davanti. Ma nell'impazienza di leggere ogni cosa in una volta sola, non riuscii ad afferrare che le sette parole di chiusa, queste. Sangue, la tua vita dipende dal fatto di restare nascosto. Ove avessi potuto conoscere tutto il contenuto del biglietto e comprendere nel suo intero significato l'avvertimento che il mio amico aveva in tal modo cercato di darmi, venendo magari ad apprendere qualche inenarrabile catastrofe, non avrei certo provato la decima parte del dilaniante e indefinibile orrore che mi ispirò nella maniera in cui lo ricevetti quel brandello di messaggio. Sangue, questa parola delle parole, sempre così carica di mistero, di sofferenza e terrore, come mi apparve triplicata nel suo significato, come cadde così distaccata qual era dal resto delle parole che dovevano qualificarla e renderla comprensibile, come cadde ghiaccia e greve fra le tenebre profonde della mia prigione, dentro all'intimo della mia anima. Augustus, senza dubbio, doveva avere delle buone ragioni per chiedermi di restare nascosto. E io a lungo congetturai quali potevano essere, ma nulla riuscii ad immaginare che mi offrisse una soluzione soddisfacente del mistero. Quando ero ritornato dal mio ultimo viaggio alla botola e prima che la mia attenzione fosse stata attratta dalla condotta singolare di Tiger, m'ero deciso a farmi sentire, a qualunque costo, dagli uomini di bordo. E se non vi fossi riuscito, a cercare di aprirmi un passaggio attraverso il falso ponte. La certezza quasi assoluta che avevo di potere, se ridotto agli estremi, condurre a buon fine l'una o l'altra di queste due imprese mi aveva dato il coraggio, che altrimenti mi sarebbe mancato, di sopportare il tormento della mia situazione. le poche parole che ero riuscito a leggere mi privavano ora del pensiero di queste due risorse supreme, e allora, per la prima volta, sentii tutta l'atrocità del mio destino. In un accesso di disperazione mi buttai sopra il materasso e così, per un giorno e una notte circa, rimasi immerso in una specie di torpore da cui non uscivo che per qualche istante a ricordarmi di tratto in tratto della mia sventura. Infine, ancora una volta mi rialzai e mi misi a riflettere sugli orrori che mi aspettavano. Per altre 24 ore era possibile, benché difficile, che riuscissi a vivere senza acqua. Ma più di tanto non era neanche da pensarci. Durante il primo periodo della mia reclusione avevo fatto largamente uso dei cordiali di cui Augustus mi aveva provvisto, ma essi non avevano servito ad altro che ad accendermi la febbre nel sangue, senza per nulla calmare la sete che mi divorava. Adesso mi restava da bere non più di un ottavo circa di litro di un così forte liquore fatto con noccioli di pesca che mi rivoltava lo stomaco. Le mortadelle erano finite. Il prosciutto era giunto all'osso e tutte le gallette, salvo un pezzo, erano state mangiate da Tiger. Ad accrescere la mia inquietudine, sentivo che il mio mal di capo si faceva più intenso da un momento all'altro e con esso quella specie di delirio che mi aveva, ora più ora meno, tormentato fin dal primo risveglio. Già da molte ore respiravo con grandissima difficoltà e adesso era con uno spasimo dentro al petto che riuscivo ogni volta a trarre il fiato. Ma avevo ancora un motivo di natura del tutto diversa per essere inquieto, e fu a causa del terrore mordente che esso destò in me se io riuscii a vincere il mio torpore e rialzarmi dal materasso. Era la condotta del cane a provocare questa inquietudine. Avevo già notato qualcosa di strano nelle sue maniere mentre stropicciavo lo zolfo sulla carta. Proprio intanto che stropicciavo, era venuto ad appoggiare il naso contro la mia mano, dandone un lievissimo grugnito, ma io ero troppo preso in quel momento per fare attenzione a una cosa simile. Subito dopo, come ho detto, mi ero gettato sul materasso ed ero caduto in una specie di letargo. Avvertii allora uno strano suono fischiante vicinissimo alle mie orecchie e come mi volsi compresi che proveniva da Tiger, il quale, tutto ansante e sbuffante, pareva in preda alla più viva agitazione, con le pupille che scintillavano ferocemente nell'oscurità. Gli parlai, ed esso rispose con un sordo brontolio. Poi se ne restò tranquillo. Io ricaddi nel mio torpore, e di nuovo ne fui riscosso allo stesso modo. Così per 3 o 4 volte, fino a che, spaventato da un tal modo di fare, non mi svegliai del tutto. Trovai allora il cane, coricato sull'imbocco della cassa, ringhiando paurosamente, sebbene come in sordina, e digrignando i denti in un modo che faceva pensare fosse in preda a qualche convulsione. Senza dubbio la mancanza dell'acqua o l'aria rinchiusa della cala dovevano averlo reso idrofobo, e io non sapevo qual partito prendere. L'idea di ucciderlo mi era insostenibile, e tuttavia non mi restava altro da fare se volevo salvarmi. Vedevo i suoi occhi fissi su di me, con animosità mortale, e aspettavo che da un momento all'altro si slanciasse per attaccarmi. Alla fine, non sapendo sopportare più a lungo quella terribile situazione, mi decisi ad uscire dalla cassa e a sbarazzarmi di lui se per la sua ostilità mi avesse costretto a farlo. Per uscire mi occorreva intanto passargli sopra e pareva che esso non aspettasse altro. Si rizzò sulle zampe anteriori, come io compresi dallo spostamento di posizione dei suoi occhi, e mostrò tutta la fila bianca delle sue zanne che si scorgeva benissimo luccicare bianca nel buio. Allora io raccolsi quel che mi restava del prosciutto e la bottiglia col liquore, me li assicurai addosso insieme a un lungo coltello che Augustus mi aveva lasciato. Quindi, avviluppatomi quanto più strettamente mi fu possibile nel mio mantello, mi feci sull'uscita. Ma non appena mi fui mosso che il cane, lanciando un urlo altissimo, mi saltò alla gola. Mi colpì con tutto il peso del suo corpo alla spalla destra e io precipitai sulla sinistra mentre la bestia idrofoba andava a finire al di là di me. Io ero caduto sulle ginocchia con la testa affondata nelle coperte, ciò che servì a proteggermi da un secondo furioso assalto, durante il quale sentii i denti acuti dell'animale piantarsi con forza nella lana che mi avvolgeva il collo, senza riuscire, per fortuna, a penetrarne tutte le pieghe. Mi trovavo sotto di lui, e in pochi momenti esso avrebbe potuto ridurmi in suo potere, ma la disperazione centuplicò le mie forze. Coraggiosamente scattai in piedi e scosso via il cane col semplice urto del mio slancio, tirai a me le coperte del materasso, le gettai su di lui e prima che potesse liberarsene raggiunsi la porta e gliela chiusi contro. Nella lotta ero stato però costretto ad abbandonare il pezzo di prosciutto che mi restava, sicché ora tutte le mie provviste si riducevano unicamente all'ottavo di litro di liquore. A questa constatazione mi sentii invaso da uno di quegli accessi di perversità di cui si pensa capace solo un bambino viziato, e portatami la bottiglia alle labbra, la vuotai sino all'ultima goccia, quindi la ruppi con rabbia sull'impiantito. L'eco del vetro infranto s'era appena spenta che intesi pronunciare il mio nome da una voce inquieta ma soffocata, la quale proveniva dal ridotto dell'equipaggio. La cosa fu così inattesa e così intensa l'emozione prodotta in me da essa, che invano io mi sforzai di rispondere. Ero incapace di pronunciare una sola parola e terrificato dall'idea che il mio amico, giudicandomi morto, non se ne tornasse via senza cercare di trovarmi, me ne restavo tra le casse vicino al mio nascondiglio in preda ad un tremito convulso e tutto anelante nella brama di riuscire a pronunciare qualcosa. Quand'anche non si fosse trattato che di pronunciare una sillaba, io non avrei potuto. Avvertii come un lieve movimento attraverso lo stivaggio in un punto molto innanzi dal luogo in cui mi trovavo, ed ecco il rumore si fece meno distinto, poi sempre più debole, come andasse estinguendosi. Dimenticherò mai quello che provai. Egli se ne andava, il mio amico, il mio compagno dal quale pure avevo il diritto di aspettare tanto e tanto, se ne andava, mi abbandonava, se n'era andato. Mi avrebbe lasciato perire miseramente, spirare nella più orribile e ripugnante delle prigioni, mentre una sola parola, una sillaba poteva salvarmi e io non avevo la forza di pronunciarla. Provai in quel momento più di 10.000 volte tutte le torture dell'agonia e, preso dalle vertigini di una debolezza mortale, caddi contro lo spigolo della cassa. Nella caduta il coltello mi scivolò dalla cintura dei pantaloni, andando a finire con un rumore metallico sull'impiantito. Mai deliziosa melodia giunse al mio orecchio più gradita. Con l'animo sospeso stetti in ascolto per constatare l'effetto del rumore su Augustus, già che la persona che aveva pronunciato il mio nome non poteva essere altri che lui. Per alcuni minuti tutto restò silenzioso. Poi di nuovo sentii ripetere, a voce bassa ed esitante, «Arthur!» Allora, per la rinata speranza, ritrovai d'improvviso la parola e gridai a voce spiegata, «Augustus! Oh, Augustus!» «Zitto, per l'amor di Dio!» fece lui di rimando con voce che palpitava d'emozione. «Sarò subito da te, appena riuscirò a passare!» A lungo lo udii muoversi per la stiva e ad ogni istante mi pareva un'eternità. Finalmente sentii la sua mano sulla mia spalla e nello stesso tempo egli mi accostava alle labbra una bottiglia d'acqua. Soltanto quelli che sono stati strappati all'ultimo momento dall'orlo della tomba o che hanno conosciuto le insopportabili torture della sete in circostanze altrettanto gravi quanto le mie nella mia paurosa prigione possono farsi un'idea dell'indicibile gioia con la quale a lungo ma tutto d'un fiato assaporai, attaccato alla bottiglia, la più perfetta delle voluttà. Soddisfatta che ebbi così in una certa misura la mia sete, Augustus trasse di tasca 3 o 4 patate bollite che io divorai con grande avidità. Egli aveva portato una lanterna cieca e i raggi deliziosi di essa non mi davano meno piacere del cibo e dell'acqua. Ma ero impaziente di apprendere la causa della sua lunga assenza. ed egli cominciò a narrarmi quanto era capitato a bordo durante la mia clausura.